Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che parte con la sua trasmissione da questa importante iniziativa, una mostra dedicata a un grande disegnatore palestinese, quindi arte insieme a solidarietà e di internazionalismo. Lui è Nashad Ali, un'esposizione organizzata dall'Associazione Culturale La Conserva di Monte San Pietro, a cui hanno partecipato nella collaborazione anche la stessa Betty B, che peraltro con Enzo Periello ha dato il via libera a questa mostra, Radio Città Fujiko e il CRAP. La mostra, ricca di 150 tavole del maestro palestinese, ha già registrato importanti consensi nelle precedenti esposizioni e ricordiamo che Nashad Ali è famoso in tutto il mondo arabo per il suo personaggio Andala, bimbo palestinese che guarda le sofferenze del suo popolo dando le spalle a chi guarda il disegno. Una denuncia è anche un atto d'amore che parla più di tante parole in nome della pace e della giustizia. Una tensione solidaristica in un momento forse ancora più importante quanto l'occupazione israeliana si fa sempre più oppressiva nel disinteresse in generale del media di regime. Protagonisti di queste esposizioni sono i soci della Conserva e quindi Morena Moretti ha parlato col suo presidente Claudio Contri, che ci illustra un po' la situazione, le date, i luoghi. Dopo lo stacchetto musicale, a loro la parola. Siamo con Claudio Contri. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Che è presidente dell'Associazione Culturale La Conserva di Monte San Pietro, sì. Perfetto. Esatto, sì. Voi siete un'associazione culturale, organizzate sempre iniziative molto interessanti e fra qualche giorno inaugurerà una mostra importante e attualissima che è Filastin. Ce ne puoi parlare? Allora, guarda, Filastin è forse la parte terminale di un percorso iniziato l'anno scorso e devo essere sincero, con l'aiuto di CRAP, di cui tu fai parte, e quindi abbiamo fatto l'anno scorso la mostra Uniti ad Andal presso la nostra sede, una mostra che ci ha fatto scoprire questo personaggio Andala, ma quello che sta di dietro è le mani che lo hanno e la mente che lo ha disegnato, tutto il valore grafico che sta in queste vignette bellissime di Naji Ali Ali. E in quell'occasione, se non ricordo male, tu Morena mi avevi indicato il nome di Enzo Periello, che è il direttore artistico del Festival Betty B di Savignano sul Panaro. Tra l'altro nel 2025, nel periodo estivo se non erro, avevano organizzato la mostra che verrà allestita a Monte San Pietro dall'8 al 22 di maggio. Sì, la mostra è stata allestita l'anno scorso a Spilamberto, sì, all'interno del Festival Betty, esatto, B, una mostra molto, esatto, bella, esatto. E adesso sta arrivando anche a, esatto, Monte San Pietro. A Monte San Pietro. Certo. Con Enzo ci siamo incontrati qualche settimana fa, un mesetto fa, perché volevamo dare un percorso anche alla mostra, perché è una mostra divisa su due sedi, distanti qualche centinaio di metri, ma non si riusciva ad allestire tutto, che sono composte, una mostra composta da 56 pannelli, tutti in bianco e nero, con dei temi attualissimi, come dicevi tu, in effetti, perché toccano vari temi che vanno dalla Palestina, Libano, i paesi arabi e i rapporti con l'Occidente, il petrolio e tutti i valori che scatenano tutti questi temi, attualissimo adesso perché la situazione palestinese, la situazione libanese è talmente tragica che sembra che la situazione palestinese non venga neanche più riportata, e quindi ed è giusto dare una mano nel nostro piccolo anche a questo tema della libertà di un popolo che è praticamente soppresso da tantissimi tantissimi anni, quindi dal 46 in avanti è uno stillicidio di vittime civili e non solo. Quindi con noi naturalmente è una mostra quindi estremamente importante perché riporta comunque all'attualità e all'attenzione delle persone proprio la Palestina, certo, che come dicevi tu in questo momento è un po' dimenticata purtroppo. Anche molto dimenticata, sì. Ecco. E parliamo delle date e di come si svolge. Tu dicevi è in due sedi. È in due sedi. Allora, l'inaugurazione avverrà l'8 di maggio alle ore 18 in sala consiglio del comune di Monte San Pietro e lì ci sarà la prima parte della mostra e ci sarà un percorso che cercherà di essere legato con la seconda parte della mostra che è presso la nostra sede, che è una sede associativa, è una vecchia conserva alimentare, una vecchia neviera di comunità, è la nostra sede storica. È dista dalla sala consiglio qualche centinaia di metri, quindi non credo che riusciremo a fare le due inaugurazioni. Faremo ufficialmente l'inaugurazione alla sala consiglio, alla quale parteciperà Enzo Periello, assessore alla cultura Rinaldi di Savignano sul Panaro. Ci sarà la sindaca del comune di Monte San Pietro e il vice sindaco Stefano Zannarini. Poi avevo invitato e mi ha data l'assicurazione Andrea Plazzi e avevo esteso anche a CRAP, esponenti di CRAP e a Radio Città, perché sono i due partner che ci hanno permesso di poter avere sul territorio nostro questa bellissima mostra, che fra l'altro Periello mi ha anche detto sul territorio bolognese, se non è la prima volta, è una delle prime volte che avviene sul territorio della città metropolitana. Esatto. Quindi noi terremo la mostra aperta secondo gli orari della biblioteca, quindi per avere una disponibilità anche dei luoghi, accessibile senza nessun tipo di problema e gli orari si possono consultare sul nostro sito e adesso devo aggiungere la pagina dedicata alla mostra, ma sono è chiusa di domenica, ci sono degli orari mattutini, degli orari pomeridiani, quindi martedì e giovedì sono aperti anche di pomeriggio fino alle 18.30, 18.45 scusa, e quindi c'è la possibilità anche di farla vedere a chi lavora anche, quindi c'è la possibilità forse di riuscire ad avere un pubblico alla mattina, forse anche i ragazzi, cercheremo di coinvolgere i ragazzi delle scuole medie, dell'istituto comprensivo e poi vediamo se riusciamo un po' a scuotere la sensibilità delle persone a Monte San Pietro, ma non solo, ecco, siete invitati tutti compresi, anzi ti invito ufficialmente anche alla mostra e quindi tu o qualcun altro di CRAP si è ben accolti, nel senso che senza di voi non c'era questa possibilità, quindi io ti ringrazio intanto per questa opportunità, poi vediamo se ci sono altri sviluppi, noi siamo disponibili e aperti a qualsiasi tipo di iniziativa, spazio permettendo, perché il posto nostro non è enorme, però vedremo come organizzare. Parliamo di una protesta ambientale che diventa racconto collettivo tra cronaca e narrazione grafica. Si intitola Quel che resta del parco ed è il nuovo progetto a fumetti curato da Francesco Matteuzzi che porta sulla pagina la vicenda del parco Mitilini Moneta Stefanini. Siamo nel quartiere Pilastro bolognese. Al centro c'è il contestato progetto urbanistico del MUB, il Museo delle Bambine e dei Bambini, che il Comune di Bologna sta realizzando all'interno del parco stesso, cementificando l'area verde nonostante la dura opposizione dei cittadini riuniti nel comitato MUBasta. Quindi un fumetto sulla protesta contro il MUB, ma non è il solo, perché è nato anche dal collettivo Crepe una serie di fanzine che raccontano, sempre con ironia e disegni, la stessa vicenda vista con gli occhi dei contestatori. Comunque la parola a Francesco Matteuzzi nell'intervista di Alessandro Canella. L'idea nasce dalla vita vissuta, le mie finestre si affacciano proprio su quel parco e su quel cantiere di cui stiamo parlando da settimane. Dopo tutto quello che è successo, quindi la costruzione del il progetto di costruzione del museo, l'inizio dei lavori, le proteste, la repressione, mi sono chiesto in che modo poter fare qualcosa per raccontare tutto questo, al di là dei volantinaggi, al di là dei presidi e insomma di tutte quelle attività che come cittadini stiamo facendo. Ho pensato, io so fare i fumetti, quindi facciamo dei fumetti, e ho cercato di capire come raccontare questa storia. Ho contattato Stormi, perché pensavo di fare una storia breve che riassumesse tutto quanto, e parlando con loro ho detto, ma perché invece, visto che la storia è così complessa, così stratificata, anche perché non facciamo una serie che racconti tutto quanto? E così è nata, in realtà. Poi il coinvolgimento degli altri autori, tra l'altro con professionisti eccellenti anche, è venuto da sé. Possiamo citarne alcuni? Beh, certamente. Forse i nomi, quelli diciamo più noti in questo momento, sono Fumetti Brutti e Lucio Filippucci. Cioè, passiamo da, appunto, Fumetti Brutti, autrice pazzesca di storie autobiografiche, a Filippucci, disegnatore di Tex. Ce ne sono tanti altri, poi c'è Silvia Bancora, c'è Salvatore Callerami, c'è il fotografo Gianni Tugnoli anche, che ha dato un contributo su un episodio. Ci sono Lise Talami, c'è Davide La Rosa, mi sto sicuramente dimenticando adesso delle persone, c'è Rosa Puglisi. L'idea è che ogni episodio sia raccontato con una voce diversa, anche se poi per ovvie ragioni di vita mia personale la maggior parte delle sceneggiature è opera mia, perché la sto vivendo veramente sulla mia pelle tutta questa vicenda. L'idea è di avere una pluralità di voci in grado di raccontare anche diversi punti di vista sulla faccenda. Tu dicevi una serialità, infatti ogni lunedì su Stormi uscirà appunto un nuovo episodio, giusto? Esattamente, ogni lunedì per il primo mese e mezzo, poi passeremo a fare un episodio ogni 2 settimane, però sì, ecco, l'idea è quella. Anche nel comunicato che appunto avete mandato per far sapere di questo vostro progetto, sottolineate il tema della distopia. Spesso il fumetto, come dire, costruisce immaginari distopici che non esistono. In questo caso è la realtà aver portato la distopia nel fumetto? Beh, diciamo che quella che chiamiamo distopia nel comunicato è la realtà che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. La militarizzazione del parco, delle strade intorno al parco, con delle dinamiche di guerra, direi. Cioè, nel senso, io non immaginavo di potermi mai trovare in una situazione in cui i cittadini di un rione, per spostarsi all'interno del rione, invece che uscire in strada, preferiscono passare dalle cantine per non incontrare la polizia. E non perché hanno qualcosa da nascondere, semplicemente per evitare le identificazioni, per evitare tutte quelle scocciature che non dovrebbero esserci in una situazione di vita normale e che invece abbiamo vissuto. Alcune tavole sono già state realizzate, magari sul sito ne renderemo conto, metteremo anche i link, però, come dire, sono cronache o, come dire, sono riflessioni su quello che sta accadendo? Cosa dobbiamo aspettarci? Beh, in realtà un misto di cose. C'è la cronaca, sicuramente, sia cronaca proprio di questi giorni, sia capitoli che mettono in fila un po' di elementi, perché quello di cui mi sono accorto e di cui mi sono lamentato anche dentro di me è che la cronaca quotidiana ti racconta sì il quotidiano, però difficilmente ti permette poi di farti un'idea completa della cosa, perché appunto sta sul quotidiano. Oggi succede una cosa, domani succede un'altra, ed è difficile poi veramente mettere in fila tutto quanto. Quello che ho voluto fare, quindi prendendo anche un po' di tempo per la riflessione, proprio questo: dare un ordine alle cose, e quindi non ragionare sui singoli eventi, ma capire che cosa c'è stato prima di quei singoli eventi lì. Per esempio, il terzo capitolo parte chiaramente qui dal parco per capire tutto quello che è successo a Bologna negli ultimi 3 anni più o meno, a livello di gestione del verde, di edificazioni o tentativi di edificazioni all'interno del verde, proprio per dare, cioè anche per far capire in questo caso specifico che non si tratta di un caso isolato, quello del parco Mitilini Moneta Stefanini qui al Pilastro, ma che fa parte di un processo, per cui non è il primo e non è neanche il secondo, e sfortunatamente non sarà l'ultimo per come stanno andando le cose. Come alberi feriti noi, stiamo perdendo luce lentamente noi, e stiamo male e ci ritroviamo poi sempre più soli e lontani. sulle autostrade si allontanano. Quando imparerò ad amare io li seguirò. Albero tagliato come si tagliano in vela, sentono bisogni me e non bisogni te. C'erano le foglie sparse al vento e poi insieme a loro c'eravamo noi. Stamma aspettando che tornammo a casa. Stiamo aspettando chi ci abbraccerà. La trasmissione prosegue con l'intervista di Simona Di Jucali, un grande narratore francese per libri per ragazzi, che assieme a un famosissimo illustratore ha pubblicato per Orecchie Acerbo questo lavoro ore 25:05, un orario impossibile per serie di racconti, di rappresentazioni nonsense, ma cose di che di senso. Stiamo parlando del narratore Bernard Friot e dell'illustratore Guy Billou, il tutto nell'edizione italiana con la traduzione di Chiara Carminati. Dopo lo stacchetto musicale, una chiacchierata con Bernard Friot. È al telefono con noi. Vito, bene, è appena tornato in Francia dopo la presentazione del libro qui in Italia e parlando con lettori e lettrici italiane che ha incontrato durante le presentazioni, sì, volevo sapere se ha scoperto qualcosa del libro che non aveva capito mentre lo scriveva. Sì, assolutamente. La prima cosa è che è un libro perfetto per tutti e per le famiglie, perché ho fatto incontri con piccoli e grandi insieme. È stato veramente bellissimo perché ognuno, piccoli e grandi, hanno un approccio diverso. Diciamo, gli adulti un approccio più razionale. Per i bambini le frontiere tra realtà e fizione sono ancora aperte. Poi anche ogni personalità ha un modo diverso di interpretare le immagini e ci sono tanti modi. Dunque questo libro è un libro infinito, nel senso che si può aprire per 30 secondi, fermarsi su un'immagine, leggere o non leggere il testo, questo non importa molto, e sì, trovare qualcosa che può aiutare a capire qual è il momento, lo stato d'animo e poi forse anche aprire una nuova porta. E se lei avesse davvero un paio di occhiali che permettono di guardare nel passato, cosa vorrebbe vedere? Nel passato? Beh, sto leggendo un classico inglese del Novecento, e mi piacerebbe, sì, per un momento, vivere questa vita. E che cosa vorrebbe? Beh, lo faccio comunque, lo faccio con i libri. Con i libri? O con i film. Sicuramente. O con i musei. Dunque, sono tanti modi di tornare indietro per qualche momento. E cosa vorrebbe saper vedere invece nel suo prossimo silenzio? Nel prossimo silenzio, ascoltare una musica completamente nuova, è scritta per me. Guy Billot, ti presento Guy Billot, disegnatore francese che risiede negli Stati Uniti dal 1969. Ha collaborato con Life, Time, Vogue, Playboy, The New Yorker, Le Monde e tante altre riviste. I suoi libri per bambini sono stati più e più volte inseriti nella selezione del New York Times Magazine tra i 10 migliori libri illustrati. Molte le immagini presenti in quest'opera che sono già state pubblicate tra il 1982 e il 2006 sulle pagine di The Atlantic Monthly. Parliamo delle meravigliose tavole del suo compagno di avventura, Guy Billot, spero di pronunciarlo bene, ma adesso me lo dirà lei. Guy Billot. Può aiutarci a raccontare ai radioascoltatori e radioascoltatrici che non le possono vedere alla radio, che ironia, che forza hanno queste tavole presenti nel libro? Sì, allora, si può dire che Guy Billot, che adesso vive in America da 40 anni, è un illustratore francese, viaggiato molto, e lui parte sempre da fotografie, dunque sono illustrazioni molto realistiche, ma lui apre la porta verso un'altra realtà, e dunque in ogni immagine c'è qualcosa di fantastico. Per esempio, partiamo dalla copertina, perché cioè, questo è molto divertente, perché i bambini vedono subito la cosa strana, dagli adulti è più difficile. Si vede la notte, un cielo, tante stelle, poi un binario, e c'è una galleria, e alla fine della galleria, se il lettore guarda bene, c'è la luce del giorno. Dunque, sulla stessa immagine c'è la notte e il giorno, buio e luce. E poi c'è un'altra tavola che mi ha molto colpito, che è quella delle galline che attraversano la strada deserta in una complicata, sì, autostrada. E mi è venuto in mente, sì, che durante il Covid è successo veramente che gli animali selvatici invadessero le strade deserte senza auto e senza persone. Ma allora, Bernard Friot, la realtà è davvero talvolta più incredibile della fantasia, o è sempre la fantasia degli artisti e delle artiste più incredibili del reale? Tutti e due. Il libro si conclude così, con un po' di ironia. Sì, ma dipende veramente dal modo di guardare la realtà. Io dico che le cose più banali sono meravigliose, ma ancora una volta una goccia d'acqua sul tavolo, per esempio, è tutto un mondo. È il nostro sguardo che ci aiuta a vedere la realtà in tanti modi diversi, e c'è anche lo sguardo fantastico, come direbbe Gianni Rodari. La fantasia è un modo come altri, come la scienza, per esempio, la fisica o altre scienze, di interpretare, di esplorare il mondo. E penso che questo libro è un invito a sviluppare la nostra fantasia come modo di guardare il mondo. E lei dice che durante i viaggi capita di sentirsi anche fuori posto, come se i luoghi ci dicessero che quella non è casa nostra. Ecco, può suggerirci come vivere un viaggio per sentirci a nostro agio, sia quelli da fermi che i viaggi avventurosi? Assolutamente, è un'esperienza che secondo me tutti hanno fatto. Dipende da noi, dipende naturalmente dagli altri, trovare il modo di comunicare, di trovare qualcosa in comune, e poi questo sentimento di essere estranei può sparire. E infine le chiedo una battuta sul titolo del libro, Ore 25.05, come si arriva in quella dimensione temporale? Allora, devo dire che il titolo francese è diverso, è semplicemente Da mezzanotte alle 14, che è un po' anche strano, ma che in un certo modo è un'interpretazione dell'illustrazione di copertina. La casa editrice italiana Orecchio Acerbo ha cercato un titolo, diciamo, più generale, che già annuncia: con questo libro entriamo in un mondo diverso, dove gli orari sono diversi. Dunque, come una metafora, mi piace anche molto. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.